1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:17 minuti, razza di debosciati, come vi chiamo io affettuosamente. Sappiate che il Papa si sveglia alle 4:30, alle 4:30, alle 4:30. E voi che fate? Come il nostro alpino, Peter Bescapè. Alle 4:30, ti svegli come il Papa. E quindi forza, forza, andate a produrre. Allora, oggi parleremo, il gran giorno, Renzi dice taglio le tasse, eccetera. Oggi avremo ospiti due esponenti politici che non sono in Parlamento, hanno una visione certamente di partenza diversa, quasi forse agli antipodi possiamo dire. Sono Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista e Santo Versace, che è diventato da due giorni presidente di Fare per fermare il declino, ovviamente anche imprenditore. Avremo ospiti loro alle 8:15 a capire cosa ne pensano di quelle che sono le ricette anche sui giornali di Matteo Renzi. Andiamo a leggerle a proposito sui giornali. In questo mercoledì 12 marzo i titoli, Sole 24 Ore, Renzi, ho i soldi, vado avanti. Questo è il titolo di prima pagina, mentre il Corriere della Sera, sconto fiscale in busta paga, apre così. La Stampa invece, Renzi, meno tasse da aprile. Per il Messaggero, Renzi, taglio IRPEF in busta paga. E poi l'altra grande notizia è la questione della legge elettorale. Repubblica. Legge elettorale, il voto tra i veleni. Per il giornale, mezzo PD molla Renzi, mentre l'Unità, l'Italicum va, il PD si spacca. Il Fatto Quotidiano, Renzi nel panico, salvo per 20 voti. Questo è il titolo di prima pagina, mentre Avvenire mette Renzi all'attacco. L'apertura di Libero invece è un po' insolita, una sorta di scoop di Libero. Spiati tutti i deputati. Da decenni, clamorosa scoperta a Montecitorio, qualcuno ha conservato i tabulati di qualsiasi chiamata fatta dai telefoni fissi della Camera fino al 31 dicembre. Un'arma di ricatto formidabile, questo scrive Libero. Ma la notizia che è in prima pagina, l'apertura del Quotidiano Nazionale e anche l'apertura dell'approfondimento della mia rassegna stampa, è una di quelle aperture che vanno introdotte con il solito mantra, se siete in macchina. Per favore tenete le mani non strette, ma strettissime, serrate dalla rabbia sul volante, mani sul volante, perché l'ultima, ne abbiamo parlato anche alle 7:30, l'ultima vicenda delle spese loro con i soldi nostri, sconfina un po' nel clamoroso. Un vibratore, ebbene sì, c'è anche un vibratore nei rimborsi chiesti dal partito di Freiheitlichen, i libertari, diciamola come traduzione. Sono della provincia autonoma di Bolzano, giocattoli erotici a spese della provincia. Dicono loro, non è vero, è stato un errore. L'apertura del Quotidiano Nazionale appunto è su questo. C'è la capogruppo Ulli Mayr, la segretaria del partito dei Freiheitlichen, rimborsi a luci rosse, 25,95 euro vibratori Toy T. Questo è la dicitura sullo scontrino. Dice c'è stato un errore, sarà stato qualcuno, dice, un regalo di compleanno decisamente un po' spinto per un collega avvezzo alla burla, tutto qui. Ma poi minacciano chiunque diffamerà dicendo che i Freiheitlichen abbiano utilizzato irregolarmente fondi pubblici sarà querelato. Sta di fatto che la notizia è ormai finita su tutti i giornali. L'apertura del Messaggero a pagina 15: giocattoli erotici con i soldi della provincia. Oppure guardate qui sul Corriere della Sera, l'abbiamo detto, anche altri giornali come il Quotidiano Nazionale addirittura lo mette in prima pagina: Bolzano giocattoli erotici nei rimborsi dei consiglieri, l'Alto Adige trema per un vibratore, così titola Libero. Ovviamente i titolisti si sono pure sbizzarriti, vi rendete conto? Un vibratore, anche il vibratore pagato a spese, pagato con i soldi nostri. A proposito di questo e di tenere le mani strettissime sul volante, il Fatto Quotidiano, che mette questa notizia ovviamente a pagina 6, Bolzano, la destra gode per il rimborso del dildo, vabbè, come vedete, cioè, io immagino ieri le redazioni con i titolisti impazziti che si sbizzarriscono per fare il titolo più ammiccante e accattivante su questa notizia. Ma c'è anche, sempre a pagina 6 sul Fatto Quotidiano, l'intervista imperdibile ad Alfredo Castiglione, vicepresidente della Regione Abruzzo, che racconta del pranzo, con tanto di ricevuta che viene fotografata e messa sul Fatto Quotidiano, pranzo a Bari in una trasferta per la Regione Abruzzo, 202 euro, un pasto, unica dicitura, aragosta. Ma insomma, lei ha pagato 200 euro per aragosta, ma non so perché c'è scritto solo aragosta, ma mi scusi, lei l'ha mangiata questa aragosta? E come no, se ho scritto aragosta c'è scritto lì ho mangiato l'aragosta, non è un delitto mangiare l'aragosta. Sì, ma 202 euro, non le sembrano troppi? Sì, ma abbiamo pagato per quel che si è mangiato. È il ristorante famoso, tra l'altro, raccontano, a Bari, ai due ghiottoni, dove il Fatto ha chiamato e dicono: beh, ma qua arrivano anche conti a 300, 400, 500 euro come fosse niente, basta che uno chieda il caviale ed eccolo lì. E assessore, ma le sembra una spesa giusta? Ma sì, era troppo, ma un pranzo a base di pesce, non è che ci siamo messi a disquisire se era troppo, era poco, altre volte comunque ho pagato. Questo è il vicepresidente della Regione Abruzzo, intervistato da Antonio Massari sul Fatto Quotidiano. E poi continua: scusi, cambiamo argomento. Lei il 2010, 11 settembre, va in un fine settimana all'hotel Victoria Terme di Tivoli con sua moglie, costo 515 euro a spese della Regione. Qual era la sua missione istituzionale? E sentite la risposta del vice governatore dell'Abruzzo: ma io sono anche assessore al termalismo. Al termalismo. Al che? Chiede il Fatto. Al termalismo. E cioè mi occupo delle terme. E certo, e quindi è andato alle terme. E che attività istituzionale ha svolto? Degli incontri, non è che sto qui a dire che cosa ho fatto. Scusi, se si tratta di incontri istituzionali, lei deve dire invece cosa ha fatto. Erano incontri prodromici all'attività termale in Abruzzo. Ecco, è andato a fare i prodromi dell'attività termale, essendo assessore al termalismo della Regione Abruzzo. Vabbè, se avevate una tazza di caffè bollente, non vi ho detto di appoggiarla, e se vi siete scottati, non chiedetemi i danni, non chiedetemi i danni. Allora, la notizia è ovviamente da ieri sui giornali e oggi è ulteriormente approfondita, ovviamente con la delicatezza del caso da trattare, delicatezza perché è inevitabile che la vicenda delle baby escort, con la notizia che tra gli indagati ci sia il marito dell'onorevole Alessandra Mussolini, ha prodotto quell'impazzimento dell'informazione per cui protagonista diventa non tanto il marito quanto Alessandra Mussolini stessa, che si vede sbattuta sui giornali in quanto moglie dell'indagato, in quanto personaggio pubblico certamente. Ma se volete, in qualche modo vittima anche lei di una situazione che peraltro è tutta da chiarire. In ogni caso, oggi ancora diversi giornali si concentrano su questa notizia: baby prostitute, prove certe sul marito della Mussolini. Questo per esempio è il titolo del Corriere della Sera, pagina 21, con Fulvio Fiano che racconta: prima hanno individuato l'utenza telefonica, poi l'hanno incrociata con le intercettazioni, sono risaliti al presunto cliente fino a fugare gli ultimi dubbi anche con il riconoscimento fotografico fatto dalle due adolescenti che da loro avevano ricevuto soldi in cambio di sesso. Gli interrogatori non hanno cambiato il quadro delle accuse che i PM definiscono incontrovertibili. E tra questi anche c'è appunto l'indagine nei confronti di Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini, sposati dall'89, tre figli. Tra l'altro il Corriere racconta come nel gennaio 2010 l'attuale deputata del PDL era presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e si batté proprio contro l'introduzione, per il reato di introduzione di pedofilia culturale o ideologica, e poi soprattutto concentrandosi al contrasto del grooming, cioè l'adescamento in rete. E sta di fatto che chiaramente ora, come racconta anche il Messaggero, che ieri per primo insieme a Repubblica ha dato la notizia, oggi ci torna, pagina 13, il titolo è Baby Squillo, nel giro coinvolti altri VIP, racconta di elementi incontrovertibili e racconta di come, e questo è anche sviluppato sulla Stampa che dedica una pagina dal titolo Contro il marito della Mussolini, foto, video e intercettazioni, racconta la Stampa, lei, Mussolini, sempre pronta a metterci la faccia, si è chiusa in un addolorato e ostinato silenzio, forse pensando alle sue due figlie, la più grande non ancora 19enne, che come tutte le ragazzine vedono il padre come un eroe. Sta di fatto che sono 20 per ora gli uomini identificati, 10 di loro pronti a patteggiare, ma chiaramente la notizia coinvolge soprattutto il marito della Mussolini, incastrato dalle foto, questo è il titolo di pagina 20 di Repubblica, cioè dal riconoscimento fotografico, e anche Libero mette la notizia in prima pagina, SMS alle baby squillo e foto, indagato marito della Mussolini. Comunque la pensiate, certamente si è visto un livore, prima ci diceva Luca Dini, molto forte soprattutto nella rete nei confronti di Alessandra Mussolini. Sta di fatto che intanto è un'indagine, è tutto da accertare, ma chiaramente c'è questa situazione paradossale per cui protagonista diventa lei in quanto personaggio pubblico e non tanto la persona indagata, cioè suo marito. In ogni caso andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con le notizie più importanti della politica, certamente il Consiglio dei Ministri di oggi con la questione dei soldi, dove trovarli. Renzi dice basta con questa vicenda delle coperture, non solo 10 miliardi ma 20 a disposizione ci saranno, lo vedremo tra poco, e poi la legge elettorale. Alessandro Milan ti mette le ali. Ma chi è sto matto? Matto vero. Ti abbraccio, matto vero, per tenerti costretto con le mie braccia come una camicia di forza. Ti voglio benissimo comunque. Allora, alle 7:33 minuti, cari ascoltatori, il Consiglio dei Ministri di oggi è atteso come un Consiglio dei Ministri importante, decisivo per la questione della riduzione delle tasse. Ieri, come racconta il Sole 24 Ore in prima pagina con Fabrizio Forché, a un certo punto Matteo Renzi ha sbottato. Chi dice che mancano le coperture? Io i soldi li ho, fino a 20 miliardi. Basta con la mancanza delle coperture, basta con i rinvii, basta con le resistenze, i dubbi, basta con i frenatori. Li chiama così, i frenatori. Ho le cifre qui davanti, posso entrare nel dettaglio, non capisco chi ha interesse a metterlo in dubbio. E racconta poi ancora in questo retroscena Forché, Matteo Renzi non ha dubbi su chi siano i frenatori, ma non lo dice. Non è un mistero che però dal Ministero dell'Economia durante tutto il giorno sono stati avanzati dubbi sulle coperture, anzi certezze. Non c'è ancora niente di solido, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. La spending review produrrà i suoi effetti nel tempo e comunque i tagli non sono indolori. Ho tutte le coperture, insiste invece Renzi, ne ho anche di più, arrivo fino a 20 miliardi, tutti nel 2014. Non li utilizzerò nella totalità, ma almeno 10 miliardi sono sicuri. Insomma, come scrive più avanti Forché nell'articolo, Renzi butta il cuore oltre l'ostacolo, non vuol sentire parlare di quello che si può o non si può fare, vive come assurde, anacronistiche, burocratiche le regole sulle coperture, e nel retroscena di Repubblica tutto questo viene sottolineato ancora di più, come racconta Claudio Tito in prima pagina di Repubblica, che in qualche modo pedina nella giornata di ieri, una giornata importante anche per la quasi salto della legge elettorale che verrà approvata oggi. Pedina Matteo Renzi, in questi giorni, scrive Tito, non si è discusso di donne, si è cercata un'operazione politica per dire che io non controllavo il PD. Questa è la frase di Matteo Renzi. Usando il voto segreto qualcuno ha tentato la rivincita sulle primarie, qualcuno ha cercato di farmi fuori, ma la legge elettorale va e ora noi cambiamo il paese. Alla fine ci ha messo la faccia ai giovani come speranza, i trabocchetti sono finiti. Sta di fatto che, scrive Repubblica, ecco, questo è ciò che non piace a Renzi, abbiamo recuperato 20 miliardi, ne utilizzeremo 10, ma il problema è che ci troviamo dinanzi il potere dei tecnocrati. Non parlo di Padoan, cioè del ministro dell'economia, con il quale la sintonia è perfetta, ma di certa tecnocrazia, sola che ora si sono trovati due sindaci, come me e Delrio, che sanno come vanno queste cose e certe furbizie non le possono fare. Il gioco delle tre carte è finito. Rimane da capire il mistero con chi ce l'ha Matteo Renzi, con i tecnocrati all'interno del Ministero dell'Economia? Ora mi viene in mente che qualche giorno fa avevamo segnalato più volte da vari articoli che i responsabili alti in grado del Ministero dell'Economia, funzionari, capi di gabinetto, capi di dipartimento, sono quello che i giornali definivano una ridotta lettiana, cioè tutti fedeli a Letta. Sarà mica che c'è una guerra già in atto sulla questione delle coperture, ci soldi non ci sono, i soldi ci sono, i soldi non ci sono, i soldi ci sono e ci vanno di mezzo gli italiani? Staremo a vedere. Certo che anche Alesina e Giavazzi, Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, oggi su questo tema, su Corriere della Sera, sono molto precisi. Il titolo è patrimoniale, lasciate stare, cioè l'ennesimo no all'ipotesi di patrimoniale che spunta. Ma a un certo punto Alesina e Giavazzi danno questo consiglio a Matteo Renzi. Quanto tassare dipende dal livello di spesa che il governo ritiene preferibile. E qui sta il punto. Renzi sbaglierebbe se chiedesse a ministri di spesa e funzionari dei ministeri a quanto ammontino i tagli realizzabili e poi sulla base di questa informazione decidesse la misura del taglio alla pressione fiscale. Così non si va da nessuna parte, scrivono Alesina e Giavazzi. Funzionari e ministri gli diranno che non rimane quasi più nulla da tagliare, nonostante la spesa al netto di interessi e prestazioni sociali sia pari a 351 miliardi di euro. Renzi deve invece capovolgere il problema, decidere di quanto vuole ridurre la pressione fiscale, ad esempio 20 miliardi, e poi ordinare che tra quei 351 se ne trovino 20 da tagliare. Insomma, anche Alesina e Giavazzi confermano che è una questione di metodo, è una questione evidentemente di braccio di ferro interno. C'è il dato di fatto che Renzi, che dice oggi alle 17 conferenza stampa e sarà un taglio delle tasse e ci saranno soldi freschi nelle tasche degli italiani, ha a che fare con quelli che lui chiama i tecnocrati, i burocrati, i frenatori all'interno della compagine del governo. Chi sono? Certo, sempre il Sole 24 Ore con Marco Mobile e Marco Rogari raccontano come per l'economia le coperture siano incomplete, che sia ancora un puzzle difficile da comporre, che nella notte ci si affanna per cercare di capire questa dote da 10 miliardi necessaria per ridurre le tasse del 2014 da dove possa spuntare. O, come dico sempre io, un po' ironizzando un po' no, ho due urini in tasca, se hanno bisogno lor signori, questo metto a disposizione. C'è da dire che Susanna Camusso, intervistata dal Corriere della Sera, a pagina 5, da Enrico Marro, parla proprio di questo giorno importante. Diciamo in premessa intanto, non è una questione di antipatia o simpatia con Renzi, fa anche questa battuta, abbiamo incomprensioni caratteriali, ma mica dobbiamo fidanzarci. Così Susanna Camusso, e poi dice: voglio il taglio delle tasse e se tagliano le tasse al governo noi festeggiamo, ma devono andare tutti a pensionati e lavoratori, coloro che hanno dovuto ridurre i consumi, quindi se vuoi far ripartire la domanda devi cominciare da qui. E risponde Susanna Camusso in qualche modo alla lettera che ieri il presidente di Confindustria Squinzi aveva mandato proprio al Corriere sulla questione dell'IRAP. Non abbiamo visto in questi anni una corrispondenza tra profitti e lavoro, anzi c'è stato uno spostamento progressivo degli investimenti verso la rendita. È giusto sostenere le imprese che innovano, assumono, ma per questo non serve un taglio generalizzato dell'IRAP. A Squinzi dico che ciò non si ottiene finanziando a pioggia le imprese che assumono solo quando aumenta la domanda. E dunque Camusso, questo è il titolo, meno IRAP non vuol dire più posti, e invece chiede il segretario della CGIL, tutto il taglio delle tasse deve andare a lavoratori e pensionati. E poi sulle accuse di prendere 1 miliardo di euro i sindacati dallo Stato risponde così: è una campagna che segue la moda, i CAF e i patronati non sono solo sindacati ma anche associazioni imprenditoriali, liberi professionisti, sono anche delle associazioni imprenditoriali, dei liberi professionisti e di altri soggetti, e soprattutto dice alla domanda prendete soldi pubblici, il sindacato non vive di soldi pubblici. Così Susanna Camusso. Staremo a vedere. Intanto ieri è stato anche un giorno importante per la legge elettorale che verrà approvata oggi alla Camera. Siamo nella 45esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Verrà approvata forse oggi, anzi presumibilmente oggi, alla Camera, poi va al Senato. I numeri sono risicati, tanto che il Corriere titola i sottosegretari in aula per salvare l'Italicum, cioè i sottosegretari che sono anche parlamentari sono stati precettati oggi dalle 9.30 al voto finale alla Camera, scrive il Corriere, tira una brutta aria. Ieri sono passati emendamenti con 20 soli voti e la domanda in realtà è già spostata su che succederà al Senato. Renzi tiene insieme il partito. Secondo il Corriere della Sera, questo è il titolo, a pagina 8, il segretario e il partito spaccato, ma io ho mantenuto il controllo. Soprattutto il battibecco verbale è stato con Rosi Bindi. Non è piaciuto a Renzi questo attaccamento di Rosi Bindi alla questione quote rosa. Renzi ha detto: non l'ho mai vista appassionarsi così tanto su altri temi importanti quanto questo, chissà come mai. Insomma, come dire, questo è un pretesto, dice Renzi, per attaccare lui stesso da parte di Rosi Bindi. E forse ancora Renzi, scrive il Corriere, avrebbe detto: forse si sta preparando la battaglia per ottenere la candidatura per l'ennesima legislatura. Sta di fatto che anche Bersani ieri in un'intervista ad Agorà si è rifatto vivo a dire: Matteo fa della movida nel paese e tutti i giornali concordano che al Senato i numeri saranno davvero un'incognita per l'approvazione di questa legge elettorale. Intanto saluto Mauro Meazza. Buongiorno Mario, come stai? Hola, molto bene. Hola anche a te. Vamos. Io volevo segnalarti delle cose più fiscali in realtà, sì. Così tanto per... volevo parlarti di redditometro. Bene. Che hai visto che sono state diffuse le istruzioni dalle entrate, sono importanti perché l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non saranno usate le famose e temute medie dell'Istat. Allora questo è un aspetto molto importante. Partiranno finalmente questi controlli che dovrebbero essere 35-40 mila. È un redditometro, come dire, snello, capisci, più agile, più atletico. Beh, mi verrebbe da dire mi sembra giusto. Vamos. Però naturalmente noi diamo anche molto spazio, forse l'hai già segnalato, per la vicenda Unicredit, decisione di Unicredit. C'è anche tutta una intervista da in pagina 2 di Ferrando e Graziani, in cui Ghizzoli spiega appunto il piano e le decisioni prese, decisioni molto importanti in previsione appunto di questa asset quality review, perché sai che adesso si parla sempre spesso inglese, Jobs Act, Champions League, cioè spesso vanno questi termini, si usano questi termini in inglese a proposito, anche a sproposito. E a proposito di voluntari, termine in inglese, voluntary disclosure, ti segnalo, si passa al disegno di legge, lo spiegano Alessandro Galimberti e Beda Romano nelle pagine di norme e tributi. Ti vorrei solo segnalare, ci sono un po' di problemi per il contratto bancari. Questo non c'è poco inglese da dire, perché sostanzialmente, come riferiamo nelle pagine di imprese e territori, nella parte dedicata al lavoro, lì si pensa ad aumenti sì ma congelati. Quindi notizie sempre positive, insomma. Ti sento però un po' adesso vamos a matar, vamos. Sei timoroso? Non so se sei preoccupato. No. che non, ho avuto diversi messaggi anche su Twitter, sai che non mi ha scritto Renzi, però altri mi hanno scritto: mi raccomando, picchia duro su Milan. Però, ma non, perché? Che, insomma, che più che ieri sera mi sembra difficile. Ma no, ma infatti, come ti avevo detto, la figura è stata da coglioni. Tu mi avevi detto da leoni e io ti avevo. Ma tu ti riferisci al Consiglio dei Ministri di oggi? Sì, mercoledì magari da leoni, martedì invece. Martedì non è stato un grande martedì. Vabbè, è il momento che io ti dica l'abituale. Sì, vuoi andare al traficos? Traficos, non so come si dice traficos, però so. Questa mattina direi traficos e speriamo che il Consiglio dei Ministri sia davvero da leoni. Va bene, maledetto. Ciao. Ciao. Hai solo un difetto, se ti chiamavi Alessandro Juve eri perfetto. Sì, capirai, andavo all'anagrafe e mettevo una bomba. Vabbè, grazie caro ascoltatore, un grande abbraccio anche a te, ovviamente. Allora, Berlusconi invece, dal parte del centrodestra, Berlusconi è preoccupato, racconta il Corriere della Sera, retroscena più interessante su Silvio Berlusconi con Paola Di Caro a pagina 11. Berlusconi è definito dai suoi ossessionato da una data, il 10 aprile, la data in cui ci sarà la decisione del Tribunale sui servizi sociali. A lui interessa solo quella scadenza, non pensa ad altro, non parla di altro, realmente è angosciato, prostrato, ha un pensiero fisso, così raccontano alcuni che stanno vicini a Silvio Berlusconi, il quale avrebbe detto, sfogandosi coi suoi: vi rendete conto a quale umiliazione vengo sottoposto? Bene che vada, sarò costretto a due colloqui settimanali con gli assistenti sociali. Dico gli assistenti sociali, è un incubo, una follia. Come possono far questo a me, un uomo che ha dato e dimostrato tantissimo in tutti i campi, nell'impresa, nel calcio, nella politica a livello massimo mondiale? Ecco, non si capacita Berlusconi, che è dato per oscillante dal punto di vista delle questioni politiche, ma racconta il Corriere, il problema è proprio questo. In realtà lui è focalizzato solo su questa data. Berlusconi pensa al 10 aprile, così mi vogliono umiliare. Questo è il titolo sul Corriere della Sera. Una notizia che è l'apertura di Libero, la cito solo rapidamente, mi ha molto colpito. Spiati tutti i deputati, il titolo di prima pagina, racconta Franco Bechis, cioè il vice direttore di Libero, che la Camera dei Deputati fino al 31 dicembre scorso è stata tenuta una colossale banca dati di spionaggio delle comunicazioni effettuate dai deputati dai numeri fissi all'interno di Montecitorio. Una scoperta che è stata fatta quasi casualmente, una banalità come spesso capita nei grandi scandali, cercando di fare un pizzico di spending review. Il Collegio dei Questori aveva cercato di dare una sterzata alle spese telefoniche e controllando si è controllato di questa cosa, di conservati tutti i tabulati delle chiamate dai numeri fissi di Montecitorio. E racconta Libero, questa è una violazione chiara della privacy e soprattutto un'arma per tenere sotto scacco i politici, perché si sa chi hanno chiamato, o meglio le utenze telefoniche chiamate. Ci sono tante notizie di cronaca di cui vorrei parlare, vediamo se riusciamo a citare alcune. La prima è questa: c'è polemica per lo scrittore Stefano Benni, che ha scritto a un notav che è in carcere. Si tratta di Mattia Zanotti, è in carcere il 13 maggio prossimo, prossimamente, no, per l'attacco del 13 maggio scorso, prossimamente verrà processato con l'accusa di terrorismo. La polemica è nata perché Stefano Benni, scrittore, ha scritto una lettera che suona così: caro Mattia, ho avuto la tua età, mi sono ribellato, ho provato rabbia, ho conosciuto anche, se per breve tempo, la prigione militare. Quando ero chiuso in caserma leggevo, parlavo coi compagni, scrivevo. Tu hai scelto di batterti per le cose in cui credi e finché ci saranno giovani come voi, anche se diversi nelle idee e nella forma di lotta, mi viene da pensare che questo paese abbia ancora un pezzo di anima e un respiro di speranza. Ecco, la polemica: Benni al notav accusato di terrorismo, tieni duro, sei la speranza dell'Italia. Le polemiche ovviamente sono deflagrate sui giornali, anche per il giornale Lettera del compagno Benni al bombarolo: tieni duro, mentre Pierluigi Battista sul Corriere fa un corsivo molto duro: inseguire i violenti, blandirli, assecondarli bonariamente, usare con loro tutti gli espedienti della retorica giustificazionista, cosa non si fa per provare di nuovo dopo tanti anni di inverno dello spirito il brivido della trasgressione. E dunque ciò che colpisce della lettera di Benny, sulla scia di una lunga tradizione di interventismo degli intellettuali del tutto ignaro dei fatti, superficiale, puramente emotivo, è che non c'è una parola che viene spesa sulle forme di lotta adottate, non dal movimento Notav, ma da sue componenti che fanno della sopraffazione il metodo e della violenza l'unico mezzo. Fioccano le minacce di morte ai giornalisti, vengono minacciati operai, fornitori, trasportatori, forme di distruzione di impianti e mezzi sono all'ordine del giorno, parlamentari piemontesi favorevoli alla TAV nel mirino dei violenti, si stilano liste di proscrizione. Tutto questo sarebbe l'anima e la speranza dell'Italia, secondo Benny? Per ricevere un applauso bisogna acconciarsi all'omertà mafiosa per nascondere i fatti, le violenze concrete, le intimidazioni? Cosa non si fa per un brivido di trasgressione? Ma non è trasgressione, è solo banalità, la banalità del conformismo. Questo Pierluigi Battista su Il Corriere. Oh, c'erano altre notizie, non c'è tempo, ci mi chiedono di leggere il titolo della Gazzetta dello Sport. Questo è il titolo sonoro oggi della Gazzetta dello Sport. Se è strano, è come un tamburo. Questo fa di suono la Gazzetta dello Sport, non capisco perché, è un'immagine di multimedialità sonora. Siamo al momento conclusivo, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Vince ancora oggi Repubblica con Cristiana Salvagni, un'intera pagina, pagina 23, concentrata sulla spesa. Sulla spesa, e va bene, uno dice la spesa. 6 minuti in più davanti agli scaffali. Quei dubbi che allungano la nostra spesa. Ora, la spesa media è aumentata di 6 minuti. Ma io dico, ma allora, la prossima volta che andate al supermercato, inizia così l'articolo, provate a cronometrare. Ma perché uno deve cronometrare pure la spesa? 6 minuti in più di media, ma chi se ne frega? Ma andate a fare la spesa tranquilli, sereni, non cronometrate nulla e non scrivetelo! Non scrivetelo soprattutto, che la carta costa! La carta costa! Com'è il titolo della Gazzetta? Ma si sono impressionati. Giornale radio.